Action. Una generazione depressa. I NEET, i cosiddetti NEET, sono i giovani ragazzi e ragazze che non sono né occupati né inseriti in formazione lavoro. Una malattia invisibile. Avevo paura degli altri, sinceramente. Cioè, non riuscivo a stare in mezzo agli altri, avevo 20 ore al giorno. In quel periodo giocava sempre a Fortnite. Una lobby farmaceutica sospetta. Stiamo diventando un popolo di depressi? Secondo l'Agenzia Italiana del Farmaco, gli antidepressivi sono gli psicofarmaci più consumati in Italia. Un futuro precario. Secondo me a 23 anni un ragazzo deve vivere la vita. Fate le valigie e andate all'estero. Andate e studiate. Un'inchiesta avvincente che svela tutto ciò che non vi hanno mai detto sulla depressione giovanile. Questa, se non è la prima, è la seconda generazione che non vede chiaro nel futuro. Se il futuro non promette niente, perché mi devo impegnare, perché devo lavorare e al limite perché devo stare al mondo? Io sono Ludovica Perina e questa è la seconda stagione di Cassandra, un podcast che parla del futuro ma non ti fa venire l'ansia. Oddio, ma cos'è sta merda? È il trailer della seconda stagione. Ma fa schifo. Ma questo è quello che volevano per la produzione. Ma quale produzione? Non lo sapevi? Adesso abbiamo una produzione e decidono loro le strategy. Le che? Le strategies, le strategie di lancio. Ma che cringe. È un po'. Ma dov'è Cassandra? L'hanno licenziata quelli delle risorse umane. Ma perché? Dicono che non era spendibile sul mercato. E dov'è andata? A fanculo. Ma dove, mi sento male? È un sentimento condivisibile. Comunque sta roba fa schifo. Dobbiamo richiamare Cassandra. È al telefono staccato da giorni, Cioè, mi sa che si è uccisa. Ma come si è uccisa? Come al solito, cioè, mi sa che si è buttata dal quarto piano. Ancora? Lo sai che è fatta un po' così, c'è un po' una drama queen. Dai, vabbè, vai a prendere le carte, il tabellone, facciamo velocemente sta seduta spiritica e la riportiamo in vita. Ok, dai, Dai, dai, dai, Speriamo che funzioni. Stupito. Ecco, ecco, la senti? Siamo pieni di ansia. Ma non è sufficiente per creare un movimento politico che sia. Pensare radicale vuol dire entrare nella terra. Ma non è sufficiente per creare un movimento politico. E ieri stavamo a un concerto di Enzo Abitabile, tutto un briag. Non fare niente. Ho socializzato con più vacche che persone. Giovani che rimangono all'infinito. Niente. Buco nero. Buco nero. Ho socializzato con più vacche che persone. I'm back, bitches.